Radio Città Fujiko e il CRAP, Comitato Ricerche Associazione Pioniere, presentano Fumetti a Sinistra, il Pioniere, un mondo dentro a un balloon. Che mondo sarà se ha bisogno di chiamare Superman? Che mondo sarà, fa l'effetto del motore che non va? Bentornata a Fumetti a Sinistra, un mondo dentro al balloon, che oggi si confronta con una novità editoriale di qualche mese, quindi fresca di stampa, una novità editoriale importante nel mondo dei fumetti, perché si tratta di un lavoro di Luca Boschi e parliamo di Italia Ride, appunto di Luca Boschi, stampato per la Nafi, l'amici del fumetto. Italia Ride, un'avventurosa epopea, leggo nel sottotitolo, del fumetto italiano comico nel dopoguerra, e quindi un libro di grande spessore, di grande conoscenza. È Luca Boschi, blogger, disegnatore, figura che è stata sempre presente nelle strips più conosciute, da quelle di Walt Disney a Matt Groening, a Popeye, a Coco Bill, animatore della scuola di cinema e fumetti animazione della scuola internazionale di comics di Firenze, già direttore culturale di Luca Comics, di Napoli Comic Con, di altre mille iniziative, ha legato suo nome a molti dei fumettisti più importanti italiani. Dunque, per sapere di più su questa Italia che ride, Morena Moretti ha intervistato proprio lui. Luca Boschi. Luca Boschi, tra i tuoi ultimi lavori c'è questo volume molto bello e anche molto corposo dal titolo Italia ride, con questo sottotitolo L'avventurosa epopea del fumetto comico italiano del dopoguerra. Quindi è davvero un'epopea, è davvero un grandissimo tema che comprende disegnatori, comprende artisti, fumettisti, autori. È un grande pezzo di storia dell'arte, storia d'Italia, oltre ovviamente a tutti i personaggi di questo fumetto comico. È un lavoro importantissimo, il primo, immagino, in Italia sicuramente, che tu hai voluto fare non solo per passione, ma ci saranno state sicuramente anche altre motivazioni. Te le vuoi dire, Luca? Prima di tutto, la cosa che mi ha sempre lasciato un po' sulle mie è il fatto che, ahimè, io sono da circa 40 anni, anzi di più purtroppo, in questo ambito con vari ruoli, eccetera, eccetera. E naturalmente non sono la prima generazione che si occupa di, come dire, storiografia, critica, letteratura sul fumetto. Insomma, sono almeno la seconda, volendo anche se ci mettiamo i padri storici, che ne so, Elio Vittorio, Torini, Oreste del Buono, addirittura prima di Umberto Eco, cioè sulle pagine del Politecnico, che hanno cominciato a scrivere di fumetti, si parla dell'immediato dopoguerra, e da allora non ci si è mai occupato, diversamente da quello che è accaduto in altri paesi come gli Stati Uniti o la Francia, di un settore del fumetto popolare che ha invaso le edicole per un lunghissimo periodo e di fatto per tre generazioni di lettori, dall'immediato dopoguerra fino almeno a tutti gli anni Ottanta. Naturalmente per fumetto popolare si intende quelli che all'epoca si chiamavano, virgolette, giornalini impropriamente, no? Di solito erano albi, albi tascabili, albi speciali e così via, almanacchi con un costo un po' diverso anche rispetto alla capacità delle tasche dell'italiano medio degli anni del pre-boom e del boom. Tutto questo settore era rimasto un po' occultato, se escludiamo i grandissimi, vale a dire tutto il settore legato a quelle Tex e altri di quel tipo, avventurosi, estremamente di grande impatto popolare, oppure se escludiamo Topolino e gli altri albi mondadoriani, un pochino Pecos Bill, un pochino Nembo Kid, questo tipo di cose qua, Capitan Mickey, il grande Black, che sono stati ampiamente ristampati anche in edicola come collaterali a quotidiani, però tutto il resto era rimasto occultato nell'ombra. Diciamo collezionista, comunque da persona che è cresciuto nel corso degli anni leggendo e trattenendo anche un po' di questo materiale, che in gran parte era usa e getta, veniva distrutto perché considerato con scarso valore, sicuramente di scarso valore collezionistico, ma all'epoca il collezionismo, quando ragazzini leggevano gli albi a fumetti, era veramente un settore molto marginale. C'era quel famoso saggio di Antonio Faeti, guardare le figure, anche se si riferiva ai libri illustrati, che però era provocatorio, si diceva, nei fumetti ci sono troppe figure e quindi il tempo della lettura è ridotto e quindi non sono educativi e tutte queste cose qua. Tant'è vero che alcuni di questi albi popolarissimi, che anche un po' dei radioascoltatori ricorderanno, se non altro perché ne hanno sentito parlare in famiglia, per esempio Intrepido, quelli più popolari e anche con centinaia di migliaia di copie vendute a settimana, cioè una cosa pazzesca rispetto ai tempi e ai numeri che ci sono oggi. Questi giornalini erano pienissimi di testo, anche ridondante, adesso difficili da leggere in modo godibile, perché non so, c'era anche un piglio letterario dietro che era obbligato, perché in qualche modo supplivano con tanto testo, un eccesso di descrizione a questa critica profonda che c'era, che le figure avessero la prevalenza. Non so chi si ricorda, erano scritti con lettering per lo più meccanico, piccolissimi, e quindi insomma, anche se avevano per esempio, non so, 60 pagine, 48 pagine o che so io, davano un tempo di lettura molto ampio. Se il lettore giovane si prendeva la briga di leggere veramente tutto e non saltava quel testo ridondante. Io in questo libro in realtà analizzo soltanto metà del lavoro che avevo cominciato a fare. Sono oltre 300 pagine di grande formato con molte illustrazioni, ma sarebbero state 600. Infatti la seconda parte, che forse, ipotizzo, potrebbe chiamarsi Italia ride e sospira, perché c'è anche il fumetto romantico un po' destinato al pubblico femminile o avventuroso. Ma in queste 600 pagine cercavo di tracciare la storia di quello che è stato, considerando l'anno 1949 come il primo ipoteticamente interessante, perché è quello in cui nasce l'albo tascabile e quindi c'è una vera e propria rivoluzione nel venduto delle pubblicazioni da edicola. L'albo tascabile, cioè come pocket, allora questo termine non si usava ancora, si chiamava per lo più quaderno, una cosa del genere. Invece troviamo i giornali illustrati. Certo, il vostro, no, il nostro, vostro pioniere era appunto effettivamente un giornalino in senso tecnico, sì. Come l'Avventuroso, come il Topolino appunto giornale, il giornale di Cino e Franco, che ne so, l'Audace, si potrebbe continuare a parlare di molti. Perché erano dei giornalini appunto antologici, c'erano sì le pagine di fumetto, che probabilmente erano quelle che garantivano il massimo impatto visivo e che forse anche determinavano l'acquisto, però c'erano dei racconti illustrati, la posta dei lettori, rubriche, romanzi con appunto illustrazioni. La parte di testo era circa il 50% di quella per immagini, notizie sportive, lo stesso sappiamo, era così. Dal Corriere dei Piccoli in poi era così la struttura. Appunto giornalini, non è un caso, il Corriere della Sera per i genitori, il Corriere dei Piccoli per i figli, ma doveva rispecchiare in qualche modo lo stesso tipo di miscela di contenuti per i giornali dei grandi. E per me è importante conoscere il contesto in cui i fumetti, ma insomma tutte le creazioni dell'ingegno, della narrazione, a questo punto sono nate. L'ambito di azione è quello che va dal 1949 tendenzialmente fino al 1965, che sarebbe l'anno, nell'aprile, in cui nasce Linus e quindi si apre, anche se timidamente, una nuova era, cioè quella delle riviste dove il fumetto diventa maggiorenne, assorbe alcuni degli elementi critici ed estetici, insomma, che sono stati individuati per esempio da Umberto Eco nei suoi saggi immediatamente prima, e insomma la gente non si vergogna più a quel punto, o perlomeno non dovrebbe, di portare con sé un albo a fumetti come se fosse un Mino Sabens, come era considerato negli anni e nell'immediato dopoguerra. A voi miei signori io voglio narrare la storia che tanto mi fa disperare. Son già 7 mesi che vedo cadere dal capo i capelli pian pian. Ormai son pelato, deluso, avvilito, non so quali cure adottare. Ma senti cosa dice quel povero infelice. Non ti lamentare, ma prova a cantare con noi questa canzone. Crapa pelata la fai turtei, che ne indamminghe soffra dei. Oh, di soffra dei falla frittata, che ne indamminghe crapa pelata. Crapa pelata la fai turtei, che ne indamminghe soffra dei. Di soffra dei falla frittata, che ne indamminghe crapa pelata. Crapa pelata la fai turtei. Che ne indamminghe soffra dei. Però nell'immediato dopoguerra accade che tutta una serie di persone, giornalisti, scrittori, disegnatori, che hanno lavorato con profitto sotto il regime fascista, non trovino più uno spazio accettabile per lavorare nella grande stampa. Ovviamente sono guardati con distacco dai direttori, dai redattori dei giornali, anche perché pensano che probabilmente alcuni lettori volterebbero le spalle agli articoli di queste persone. Quello che resta per queste persone è rivolgersi alla stampa per ragazzi. Anzi, addirittura alcuni diventano dei fondatori o dei cofondatori di nuovi periodici. Per esempio Eros Belloni, che non a caso lavorava sul giornalino paragonabile al Corriere dei Piccoli con le strofette in rima, che si chiamava Il Balilla, è tra quelli che poi scrive e fa anche da redattore del giornalino che si chiama Principe Lupettino, che è il più importante semplicemente perché è il primo a nascere immediatamente dopo Topolino, Topolino Tascabile di Arnoldo Mondadori, a nascere in quello stesso formato. Lo copia a distanza di 2 mesi. Topolino nasce nell'aprile e nel giugno è in edicola Principe Lupettino. Topolino a Milano, appunto, stampato dalle officine grafiche veronesi, però di Arnoldo Mondadori, e invece Principe Lupettino a Roma. Non è un caso, perché innanzitutto il fatto che si chiami Principe, e la parola Principe è soltanto nel primo numero, dal secondo numero in poi sarà solo Lupettino, indica una volontà precisa dell'autore. Almeno 2 dei redattori e scrittori sono monarchici e non accettano la forma della Repubblica. E nelle storie a fumetti che vengono inserite all'interno del giornalino ci sono almeno 2 serie, uno che si chiama Cresta Rossa, che è una specie di moschettiere alla corte del Re Sole, e uno è Principe Lupettino, che è il figlio di Re Lupone di Luponia, non a caso, da notare Forza Roma, Forza Lupison, no? Cioè praticamente si parla di Roma parlando di Luponia, e questi re sono sempre soggetti a congiure di palazzo, qualcuno che li vuole detronizzare, che gli vuole rubare la corona addirittura. Re Lupone se la tiene in ghiacciaia invece che metterla in cassaforte che non ha perché è diventato un cittadino comune. Insomma, sono delle piccole insidie a favore della monarchia, assolutamente fuori tempo, siamo nel 1949, che questi autori in qualche modo insinuano nelle menti degli eventuali ragazzini che leggeranno queste storie a fumetti. È interessante perché leggendo questo suo libro, quindi anche scoprendo questi particolari, anche di fumetto, che se vengono contestualizzati ci raccontano proprio anche una storia politica dell'Italia. Personaggi di questa canzone ve li hanno inventati gli autori. Se c'è attinenza con delle persone, scusate gentili signori, qui si parla di un Natale che baciare una sera si fece da una guardia forestale il cui nome è De Rossi Giosuè. Voi non la conoscete agli occhi belli. Chi? Eulalia Torricelli di Forlì. Voi non la conoscete a Tre Castelli. Chi? Eulalia Torricelli di Forlì. Nella seconda parte della trasmissione Rachele Coparoni ci prende per mano, ci invita a conoscere Amare tutto puntato, ed è una iniziativa di Canicola Edizioni, un'antologia fumetti realizzata da 5 autrici, ovvero sia Iliana Albertini, Martina Sarrizzu, Roberta Scomparsa, Alice Sokal e Amanda Vahmaki, una antologia che esplora l'adolescenza e le sue fasi raccontando amicizia, relazioni e scoperta della sessualità. 2 le voci che la nostra Rachele ha intercettato, Eliana Cupido, curatrice dell'antologia, e a seguire sentirete anche una delle autrici, Marisa Sarrizzu. Un buongiorno a Liliana Cupido e benvenuta ai microfoni di Radio Città Fujiko. Buongiorno, grazie. Amare è un'antologia a fumetti a 5 voci, sono 5 autrici femminili le protagoniste, ma che cosa unisce queste 5 storie diverse? Innanzitutto un'intenzione da parte delle autrici di concentrarsi su una storia che fosse per loro una sorta di urgenza, cioè un racconto che venisse dalla pancia e che potesse rivolgersi oltre a lettrici e lettori, come dire, adulti, tout court, anche a potenziali lettrici e lettori adolescenti, cioè parliamo, diciamo, di ragazze e ragazzi dai 16-17 anni in su. Ecco, questo diciamo che è stato un pensiero che noi abbiamo chiesto loro di rivolgere proprio nell'elaborazione e nell'ideazione della storia, non dando paletti e vincoli tematici, ma ricercando proprio dentro se stesse una narrazione che potesse rivolgersi anche a quella fascia di età, e nel racconto appunto di qualcosa che per loro fosse in qualche modo urgente e sensato comunicare, per cui non a caso sono venuti fuori dei fili rossi che uniscono questi cinque storie, in particolare proprio l'attenzione verso il racconto delle relazioni. Delle relazioni, quindi di amicizia e di relazioni d'amore, e anche l'attenzione verso quello che accade al proprio corpo durante la crescita, che cosa succede quando si inizia a scoprire il sesso, che cosa succede quando, come dire, con i genitori diventa più difficile relazionarsi, e quando anche con le amiche ci sono come dire, punti di contrasto e punti di totale amore, no? E simbiosi nel vissuto insieme in una certa fase, in una certa età. E quindi tutte queste cose attraversano le storie in maniera totalmente diversa, sia a livello stilistico che appunto come uso del linguaggio e come tipologia di narrazione. Nello stesso tempo abbiamo proprio l'impressione di stare dentro ad una bolla che in qualche modo ha dei punti di sintonia, ecco. Questo progetto non è solo un libro, un'antologia a fumetti, ma anche un vero e proprio progetto pedagogico con le autrici. In che cosa consiste? Sì, allora, innanzitutto ci piaceva l'idea di far partire questo progetto anche come laboratorio, per cui, facendo ancora un passo indietro, il progetto nasce intanto anche da una rete di sostegno, in primis tra regione, con un bando rivolto appunto alle tematiche delle pari opportunità, e il comune, grazie all'ufficio legato all'assessorato pari opportunità, che lavora quotidianamente tutto l'anno da anni per proprio attivare delle azioni pedagogiche sulla tematica appunto di andare contro gli stereotipi di genere verso più fasce di età. Quindi grazie anche al sostegno di queste collaborazioni e collaborazioni che noi stiamo mettendo in atto via via, quindi è un progetto veramente tutto in itinere, in crescita e tutto ancora da farsi, il discorso intavolato con le autrici a livello proprio di senso e di ideazione e condivisione e confronto sui contenuti è stato proprio quello di far partire una specie di laboratorio ideale via mail, di confronto dove ognuna, pezzetto dopo pezzetto, aggiornava le altre sull'avanzamento della propria storia. In questo modo siamo anche proprio riuscite a tirare le fila di quello che veniva fuori in presa diretta, ecco, non ci siamo ritrovati con cinque storie finite e definite alla fine di un lavoro solo individuale. Il lavoro individuale è stato proprio di pari passo al confronto collettivo e, dato comunque il rapporto di stima reciproca tra tutte le autrici, questo è stato molto stimolante per noi e per loro, vedere un processo in crescita, ecco, anziché solo il risultato finale. Quindi da una parte appunto la nascita proprio intrinseca del progetto è stata questa, e poi vogliamo portarlo avanti, in che senso, diciamo, non è solo un libro, nel senso che ci piacerebbe davvero in qualche modo, attraverso dei progetti pedagogici e dei percorsi tra visivo e tematico, portare avanti dei laboratori, dei workshop rivolti alle classi più alte delle superiori, insomma.